Zot. Fulminati in azienda. Sono stufo di gente demotivata in azienda. Basta mugugni, le persone sono pagate per sorridere. Oh, glielo volete dire a tutti che è ora di finirla? No, Marco, solo un capo carismatico come te può offrire loro la visione per un cambiamento, cambiamento di rotta. Solo tu con la tua leadership puoi generare nei dipendenti un reset mentale. Ecco, allora sai cosa faccio? Scrivo una bella lettera come direttore generale per tutte le maestranze in cui gli ordino questo New Deal. Smile, basta mugugni. Da consulente penso che la forma scritta sia un po' fredda. Forse un collegamento video in streaming con tutti i dipendenti potrebbe essere più efficace. Ma come un collegamento video a distanza? Ma Marco esprime tutta la sua leadership dal vivo, live. Marco, devi andare da loro a parlare uno ad uno. Sì, ho capito, ma abbiamo 28 sedi, come faccio ad andare da tutti? Ma come? Organizziamo una carovana, un roadshow con 28 tappe in 13 giorni stile U2. E tu, come direttore generale, li galvanizzi tutti dal palco, musica, scenografia, cappellini con il motto basta mugugni. Ah, e poi liberiamo 200.000 palloncini con lo smile. Marta, idea bellissima, ma siamo in un anno di austerity. Quanto ci costa questo ambaradan? Ma un evento del genere non ha prezzo. Lo mettiamo nel budget come intervento urgente per la manutenzione dell'umore dei dipendenti. Ecco, allora facciamo così. Compro l'idea, però niente palco, niente luce, niente scenografia, niente cappellini. Salvo i palloncini e la facciamo... Ma sì, dai, immensa. Buongiorno a tutti, scusate, buongiorno. Allora, care maestranze, sono qui, non potevo non venire anche in questa nostra 28esima sede, questa landa dimenticata da Dio e dagli uomini, per portare come direttore generale un bel messaggio positivo. Ma questi lo sanno che è sul pezzo, non l'hanno mai visto. Come? C'era la sua foto sul giornale aziendale. Scusa, per piacere, grazie, sono solo 5 minuti, grazie, ecco. Tra l'altro mi scuso se interrompo questa meravigliosa pausa pranzo nella nostra mensa, eh? Vedo che anche oggi state gustando la sbobba del nostro servizio mensa low food. Eh? Ma non si dice slow food? Low food che garantisce cibo ipocalorico, iponutriente e che mantiene leggero il dipendente. Ecco. Allora sono venuto qui per dirvi che dovete piantarla con i mugugni, anzi uso il noi, per oggi uso il noi. Noi tutti dobbiamo sorridere perché lavorare per questa azienda è un privilegio. E poi soprattutto sorridere è previsto nel nostro e soprattutto nel vostro mansionario. We are a smiling company. E adesso su in piedi, un bel respiro tutti insieme e fatemi un bel sorriso. Dai, siamo l'azienda del sorriso. 3, 2, 1, allora smile, bravi, là in fondo, anche là. Dai, un bel sorriso tutti insieme, anche voi dietro la colonna. Ammazza che tristezza. Allora Marta, allora hai visto no ieri il tuo direttore generale cosa ti ha combinato nella 28esima sede? Basta poco, una presenza, sorridevano tutti. Hai ragione, è stato un incontro esaltante, avvincente, tutti questi sorrisi in sala mensa, endorfine nell'aria. Ma allora li hai sentite anche tu, ma hai visto che energia? Energia. In 3 minuti, zacca, abbiamo cambiato la cultura e tu mi volevi far spendere miliardi. Hai per ragione Marco, hai ragione, tu sì che hai capito che si parte dal basso, dal contatto diretto tra il leader e il subalterno, l'azienda piatta, tu ce l'hai nel sangue. Bella, qua mi piace questa idea. Scusate, la 28esima sede, l'avete presente la 28esima sede? Bellissimo, certo, endorfine nell'aria. Ma no, una tragedia. Cos'è successo? Dove siete appena stati, appunto, roadshow, i dipendenti, dopo che siete andati via, hanno fatto la rivolta. Sono saliti tutti quanti, sul tetto e stanno mugugnando in coro. Ma erano così contenti, ma come sul tetto? Ma che figura ci facciamo con la stampa? Appunto, sono arrivate le televisioni, no, le televisioni! E di che cosa si lamenta? Hanno appeso uno striscione lungo 46 metri, con scritto altro che mugugni, useremo i pugni. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.